Giovedì 23 novembre 2017, 87.9, la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa e cominciamo con il cinema. Visionari tutti i giovedì su queste frequenze e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page trovate Ascolta la diretta, e sempre sull'home page nella colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari troverete la scaletta di oggi e tutte le informazioni sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, mentre per la posta elettronica l'indirizzo è visionari@ondarossa.info. Siamo come sempre con un largo anticipo rispetto alle 14, dalle 14 alle 15, però tra l'altro oggi non è andato neanche in onda il giornale radio, e abbiamo con noi l'ospite, il primo ospite di questa puntata, che è Igor Mattei, per parlare del progetto DOC ad Arte Calcata, Teatro Cinefestival 17, Resilienza, un'opera di Cristina Mantis. E intanto Igor, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico e ciao a tutti voi, eccomi qui, sono felice di essere di nuovo ospite, insomma, Radio Onda Rossa, che ormai ci segue da anni. Sì. E cosa posso dire? Questa volta il festival l'abbiamo portato a casa, quindi sì, è andato bene, e siamo andato molto bene, direi, nel senso che oltre le più rosee aspettative. Ora, questo, diciamo, che andiamo a proiettare il prossimo mercoledì 29 novembre qui a Roma, è il resoconto di quello che è stata veramente questa edizione di resilienza artistica assoluta, che ha portato il festival comunque a un'esplosione bellissima di energie, e che quindi ci auguriamo a questo punto di aumentare ulteriormente per la prossima edizione, sempre ammesso che si faccia, perché noi siamo resilienti forever, non abbiamo alternative che resistere in tutti i sensi, e per certi versi, Federico, che dire, è la bellezza di questa operazione nostra, perché siamo liberi completamente, e dall'altra è la difficoltà, che non mancano mai, sono addirittura troppe, e davvero a volte sono insostenibili. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di avere tanti artisti di teatro e di cinema, che tra l'altro aggiungo in una parentesi che uno degli spettacoli della Kairos Teatro lo abbiamo portato anche qui in radio un paio di settimane fa. Ah, questo insomma fa parte, Federico, di questo lavoro che noi stiamo facendo, che al di là del nostro piacere, il ritorno che abbiamo in qualità non di artisti in questo caso, ma di organizzatori, però fa parte invece di questa idea, di questa nostra visione e progetto, che è quella di dar spazio e creare collegamento tra le tante e infinite realtà di teatro e cinema emergente e indipendente del nostro territorio nazionale, che insomma non sempre, anzi quasi mai, riescono ad avere la visibilità. Parliamo da tanti anni, io da quando faccio questo mestiere dell'attore, si parla di visibilità, di vetrine e tutto quanto, però poi ho spesso riscontrato che anche chi si fa portavoce di questa urgenza, poi alla fine, a chiusura della questione, si richiude anche a sua volta in schematismi vecchi e insomma ormai desueti. Però noi stiamo tentando veramente di fare per quanto è possibile, siamo piccoli, certo, ancora, però insomma tu l'hai visto, Federico, sì. Quanto passione, quanta energia veramente gli artisti vengono, sono venuti di teatro e di cinema anche, perché abbiamo portato tanto cinema con relativi registi, attori e produttori. Ah, mi viene in mente studiati. Anche Ciro è venuto qui in radio a fare il suo monologo, insomma sì. c'è un sì, rapporto, sì, lo so, un rapporto allargato, insomma. Senti Igor, come è venuta l'idea di questo documentario? Allora, guarda, l'idea del documentario in realtà noi tentiamo ogni anno di farlo e non sempre. Il primo anno l'abbiamo fatto e lo abbiamo anche proiettato. Questa è la quarta edizione, è un'edizione anche importante. Quest'anno non avevamo intenzione di montare per proiettare il documentario, se non che una regista che ha portato il proprio documentario Redemption Song, nella specifica insomma Cristina Mantis, è venuta a presentare il suo documentario, e con lei c'era il produttore di questo documentario, che è Mario Mazzarotto della Movimento Film, che è anche un nostro carissimo amico, oltre ad essere un grande operatore culturale, e ha visto questa bella energia, questa energia così travolgente, e ha chiesto a Cristina Mantis, che aveva con sé per fortuna una videocamera, ha detto: perché Cristina non facciamo delle riprese? Mi piacerebbe fare un omaggio a Igor e a Marina e a tutto il festival. Lei ha cominciato a riprendere, a fare per una sola serata, giornata, tutta la giornata di domenica. Dopodiché Mario mi ha chiamato e mi ha detto: Igor, io ho avuto quest'idea, voglio farvi questo regalo. Il regalo è arrivato, però dovevamo ampliarlo, e lì vi dico, abbiamo organizzato non so come, messo materiale meticciato il più possibile, perché abbiamo raccolto materiale da tutti, dagli artisti che si erano filmati, da noi che avevamo filmato a nostra volta, da persone che passavano di lì e hanno filmato a loro volta in maniera del tutto spontanea l'evento, e così abbiamo rimesso insieme questo bellissimo mosaico, appunto meticcio, sporco se vuoi, ma che veramente pulsa di emozioni e di energie. E questo, ecco, è nata l'idea, sì, e da lì sì. Abbiamo detto: va bene, con tanti sforzi e energie che sono state messe in campo, non possiamo tenercelo nel cassetto, e vediamo di far vedere sto lavoro, anche perché per noi diventa anche una forma di ulteriore promozione, ma nel senso di far conoscere quello, il lavoro che stiamo facendo. Senti, Igor, su Roma. Ecco, mercoledì ci sarà questa presentazione, e poi che avete pensato per la diffusione? Presentazione, noi vogliamo che sia una festa, okay. E quindi ci farà piacere, abbiamo invitato gli artisti che sono stati nel nostro festival dalla prima alla quarta edizione, e artisti e ripeto anche operatori, quindi registi e produttori e tutto quanto. A seguire, subito dopo, ci sarà un buffet insomma offerto dalla nostra associazione, e a seguire ancora un concerto molto molto molto bello. E questo, voglio spendere due parole in merito a questo argomento qui, perché il concerto è tenuto da il duo che si chiama oddio, adesso non mi rimette la cosa, Dharma Bams. Di Colasanti e Laura Desideri, di Matteo Colasanti e Laura Desideri, che fanno una musica etno folk meravigliosa, elettronica, misto tra elettronica, chitarra, e dato che la musica, sono stati in realtà a livello musicale i vincitori morali del festival, perché noi abbiamo ospitato anche varie realtà musicali, vogliamo continuare a farlo nella prossima edizione. Loro, devo dire, che hanno riscosso un successo, non dico nostro da un punto di vista critico, ma proprio da un punto di vista proprio delle persone che hanno aderito e hanno, sai, poi senti nel paese voci, senti parlare e capisci chi è stato che ha catturato maggiormente l'attenzione o il cuore della gente. E loro, devo dire, che sono stati veramente magici. Senti. E la regista è stata a sua volta catturata dalla loro musica, e ha deciso e scelto quindi di utilizzare i pezzi che loro hanno suonato durante il festival come colonna sonora del documentario. Bene, questo ha fatto sì che poi a me venisse in mente di chiamare Matteo Colasanti e Laura e di proporgli di venire a questa serata. E loro hanno risposto immediatamente di sì, insomma con la solita generosità che contraddistingue tanti artisti, ma loro in particolare, e quindi a seguire ci sarà anche questo loro concerto. Ci sarà anche come ospite un artista, invece un straordinario chitarrista calcatese, che è Andrea Simone, che invece porterà il suo apporto sì con la chitarra ma anche con il canto armonico, essendo lui veramente un virtuoso in tal senso. Bene. Un maestro. Senti Igor, allora in chiusura ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più sul web? Certamente, sì, nel senso che vuoi che ti dica adesso che scusami, l'indirizzo, una pagina Facebook, un sito internet? Sì, la pagina Facebook è ad arte calcata. Perfetto. Questo è per quanto riguarda la pagina Facebook, e poi abbiamo il solito arzigogolatissimo sito della nostra associazione, che è www.dillingerascult.it. E basta, ecco, questo bene, è quanto. Bene. Noi saremo a Roma in una location pazzesca il prossimo mercoledì. Se qualche tuo radioascoltatore volesse venire, saremmo lieti di accoglierlo, nel senso che ci fa piacere. Quindi Federico, tienilo presente, okay. Lo dico in diretta. E laddove riusciremo ad entrare, perché siamo ormai la metà di mille, non so dove li metteremo comunque. Bene. Meglio tanti che pochi. Bene, allora quindi, ci si vede mercoledì prossimo, Igor. Mercoledì prossimo alla Domus Romana, che è un bel hotel in via di Quattro Fontane, quindi in pieno centro, location di grande magia. Quindi bene, bene. Speriamo di trascorrere insieme una meravigliosa serata. Tutti un abbraccio e ci vediamo lì. Grazie a te. Ciao Federico. Ciao. Igor Mattei sul progetto documentario ad arte calcata Teatro Cinefestival 17 Resilienza di Cristina Mantis. Sebastiano Rizzo, regista del film Gramigna, in uscita in sala oggi giovedì 23 novembre. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Sebastiano. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, per chi ci ascolta, diciamo subito cos'è questa storia di Gramigna, di cosa racconta? Ma Gramigna, in sintesi, è la storia del figlio di un boss, Luigi Di Cicco, ragazzo esistente, tangibile, quarantenne, che ha scritto questo libro a quattro mani con il buon Michele Cucuzza, giornalista, e racconta un po' la sua vita da ragazzino sino ad oggi, si può dire, il contesto in cui è nato in una famiglia di camorristi. Suo padre era il boss di un contesto camorristico, e in qualche modo lui è nato in questa famiglia, e man mano che è andato avanti non ha voluto prendere la vita del padre. Quindi in qualche modo, che significa questo? È un messaggio per tutti coloro i quali vivono in una zona, se vogliamo, a rischio. In questo caso nello specifico noi vediamo un sacco di racconti, sia dal punto di vista cinematografico che televisivo, quanto anche di vicende di cronaca, che il meridione è quella più colpita, per quanto ci siano in tutta Italia. E Luigi continua a testimoniare che uscirne si può, significa, ce l'ha fatta lui, figlio di un boss, il padre esistente ancora in carcere, dice di no, ed è un messaggio importante per i giovani, un messaggio di speranza, altrimenti abbiamo sempre un sacco di progetti di televisione o di cinema che si vede solo il nero e non c'è mai una via di uscita. Sì, Gramigna, in qualche modo, ha un punto di vista, se vogliamo, registico, di raccontare una drammaticità tale senza violenza, che sennò le violenze si ammazzano e si sparano, le vediamo tutti i giorni. Non serve, dal mio punto di vista, in questo caso registico, raccontarle, ma raccontare la parte umana di un ragazzino che subisce direttamente e indirettamente una violenza psicologica. Chi vince è lui, perché riesce a dire di no in qualche modo. Dal libro al film, come è nata l'idea, come l'hai sviluppata, Sebastiano? L'idea è nata tre anni fa, in questo periodo venni invitato alla presentazione del libro a Palazzo Ferraioli, luogo in cui c'erano giudici magistrati a testimonianza di questo libro straordinario come messaggio verso i giovani. E dopo un'ora di presentazione, letture, di piccoli passaggi, io dissi: secondo me questo è un film straordinario da fare, per quanto il mercato non è proprio propenso a questo stile di progetti, però potrebbe essere un ottimo veicolo per i giovani che guardano e in qualche modo possano prendersi una speranza. Da lì è stata un po' una pallina buttata per aria, ed è diventato dopo 2 anni un'evoluzione di una sceneggiatura, sopralluoghi, in qualche modo l'avvicinamento e la promozione in concomitanza con l'UNICEF, che ha sposato il progetto perché ritiene fondamentale questo messaggio che possa arrivare a tutti i giovani. L'AGI Scuole ugualmente ha sposato questo progetto, distribuirà anch'egli in tutte le scuole il film, e siamo anche già candidati ai David Donatello Sezione Giovani con lo stesso film. Quindi è stata proprio un'evoluzione molto veloce, molto interessante, e l'avvicinarsi di personaggi, UNICEF, AGI Scuole, lo stesso giudice Nicola Graziano, che è giudice del Tribunale di Napoli Nord, ha sposato il progetto e ha voluto esserci proprio con la sua faccia, interpretando un piccolo ruoletto all'interno del film, per dire: ci sono anch'io, sposo anch'io questo progetto. Quindi diciamo così, un turbine di emozioni importanti hanno fatto sì che questo progetto abbia uno spessore culturale abbastanza importante. Sebastiano, la risposta del protagonista reale al tuo film? Non ho capito, scusami. La risposta del protagonista reale della storia al tuo film, vedendolo? Beh, lui ormai l'ha visto almeno una decina, 15 di volte, perché tutte le presentazioni, le anteprime le vediamo, e ogni qualvolta piange, giustamente, rivede la sua vita, i rapporti col padre, con gli zii, quello che ha subito a scuola, una sorta di così additamento: quello è il figlio del boss, e la gente si allontana, ma lui è il figlio del boss. Rivedendo il percorso, perché quello che abbiamo messo, ciò che abbiamo messo nel film è tutto vero, ma è un 5% di tutto ciò che si può raccontare di Luigi. E lui ogni qualvolta: ma ieri abbiamo fatto un'anteprima, l'altro ieri a Napoli c'erano due sale piene, e lui ovviamente si rivede, è come un sogno finalmente che riesce a dire: se ce l'ho fatta io, voglio aiutare qualcun altro a dire ce la posso fare pure io, non è vero che non c'è speranza. E ogni volta piange, si emoziona, giustamente. Certo. Da oggi in sala quante sale? Onestamente non lo so, so che fortemente c'è una distribuzione abbastanza fitta in zona Campania, c'è qualche sala anche in Toscana, ma è una distribuzione, non essendo un panettone di Natale, che ha un'altra veicolazione, se vogliamo. È un film particolare, d'autore, con un messaggio abbastanza particolare, viene fatta una distribuzione abbastanza capillare, si inizia con una regione, poi si sposteranno, da ciò che ho capito con la distribuzione, si sposteranno di volta in volta, piazzando delle sale mirate nei quartieri più giusti, e farà una distribuzione un po' porta a porta, chiamiamola così. Ok, c'è qualche riferimento web per saperne di più? Beh, sicuramente su Facebook c'è la pagina Granigna il film, c'è il sito della Club Movie Production, che è la casa di produzione che ha realizzato con gran fatica questo progetto, e sicuramente sui social ci sono tutte le pagine di Granigna il film, in tutti i modi, che aggiornano di volta in volta sia le sale, tutti i comunicati stampa. Oggi siamo usciti su Panorama, che ci ha fatto un articolo intero di due pagine, straordinario. Stasera siamo su Studio Aperto, che ci fanno tutto un servizio in merito a questa cosa qua, Figlio di un boss, lancia un messaggio positivo con tutto quello che sta succedendo, vedi Ostia, la morte di Totorrina, si stanno, diciamo, incastrando una serie di cose che noi stiamo arrivando giusti per dare comunque un messaggio sano e bianco, non più tutto nero. Bene, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, e alla prossima, Sebastiano. Viva il lupo, e grazie a voi come sempre, gentilissimi, di ospitarmi. Ciao, a presto, ciao. Buon pomeriggio, ciao. Sebastiano Rizzo, regista del film Gramigna, in uscita in sala oggi giovedì 23 novembre. Eleonora Zamparutti di Arte.it sul documentario Canaletto a Venezia di David Bickerstaff, in uscita in sala il prossimo 27 novembre. Eleonora, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. È un bellissimo film documentario, questo su Canaletto a Venezia, che, come dicevi tu, è nelle sale solo per 3 giorni, il 27, il 28 e il 29 novembre, ed è distribuito da Nexo Digital. Sì. È un bel modo per andare a vedere Venezia, direi, questo documentario. Sì. Senti, nel senso che, ecco, la grande fortuna di Canaletto, devo dire, è stata Venezia, questa città straordinaria che si ritrova nelle sue vedute. Sì. Canaletto è il grande vedutista veneziano, e quello che viene mostrato in questo film sono le opere più di 200 tra oli, disegni e stampe che appartengono alla Royal Collection di Sua Maestà la Regina d'Inghilterra. Una cosa davvero straordinaria che si scopre è che furono gli inglesi fondamentalmente i grandi collezionisti di Canaletto. Gli italiani a quel tempo, nel Settecento, preferivano soggetti mitologici o legati alla storia sacra, quindi le vedute di Venezia, e per giunta per i veneziani non erano neanche così tanto interessanti. Piacque molto ai turisti. Allora erano i rampolli dell'aristocrazia che facevano il Grand Tour in Italia, facendo tappa a Roma, a Napoli, Firenze, e ovviamente anche a Venezia, certo, i quali si portavano a casa il souvenir, come fino a poco tempo fa uno spediva una cartolina e adesso fa una fotografia col proprio cellulare. Quindi allora, Venezia, rispetto all'opera, un grande senso estetico, geometria, prospettiva, architettura, insomma c'è un po' tutto rispetto all'arte nelle opere di Canaletto. Sì, certo. Quello che si scopre è che Canaletto è un grande maestro da due punti di vista. È un grande maestro della prospettiva, sì, che è un elemento che impara dal padre, che era uno scenografo teatrale, ed è un grande maestro della luce. La scuola del colore a Venezia è sempre stata molto forte, molto importante, a partire da Tiziano, anche perché Venezia, che era una città mercantile, luogo di scambio tra Oriente e Occidente, era una città dove arrivavano dei pigmenti molto particolari e c'era una grande varietà di pigmenti, cosa che consentiva di ottenere un effetto di luce e colore molto particolare nelle tele dei veneziani. La cosa bella, scusami. No, l'altro giorno mi stavi raccontando delle peculiarità rispetto alla committenza di Canaletto. Sì, certo, perché il suo primo, diciamo, collezionista fu questo James Smith, che era il console britannico che viveva a Venezia e si era fatto costruire un bel palazzetto sul Canal Grande, che si vede anche nel documentario. A un certo punto questo personaggio diventa l'agente di Canaletto e espone nella propria casa le tele che Canaletto realizza, delle vedute di Piazza San Marco, del bacino San Marco, del Canal Grande. Ospiti del console sono illustri personaggi che vengono dall'Inghilterra e che decidono di acquistare copie di queste tele, e la gente le commissiona a Canaletto. In particolare un rampollo della famiglia Woburn, esiste ancora oggi la Woburn Abbey, che è una famiglia storica che possiede la più grande collezione, diciamo privata, sempre in Inghilterra, di 24 tele. Acquistò queste tele per 188 sterline, che sono l'equivalente di 16.000 pound di oggi. Considera che le tele di Canaletto oggi vengono battute all'asta per milioni di sterline. C'è stata una tela che è stata battuta nel 2005 da Sotheby's per 32 milioni di dollari, quindi hanno mantenuto sempre un grande valore le tele. Questo collezionista non solo vende, questo collezionista e agente James Smith non solo vendeva gli oli a chi aveva anche il denaro per acquistarli, ma poi aveva messo in piedi una stamperia per produrre le incisioni, con le incisioni, le stampe delle opere di Canaletto. Quindi per chi non aveva soldi c'era anche una linea di prodotto più accessibile. E la cosa pazzesca è che Smith vendette a un certo punto nel 1762 la propria collezione al re Giorgio III d'Inghilterra. Ecco perché oggi le tele di Canaletto sono di proprietà della regina, e di fatto non si sa quanti soldi girò mai a Canaletto, il quale quando morì aveva ben poche cose in casa, e dall'inventario emerge che aveva 4 tele, 3 camicie e un paio di pantaloni. Ecco, come dire, fu un artista Canaletto che si applicò moltissimo nell'arco della sua vita e che poi morì quasi in miseria. Quasi in miseria, sì. Senti, e sull'allestimento di questa mostra inglese cosa ci dici, Eleonora? Beh, allora, l'allestimento è molto interessante, nel senso che ci sono non solo tele, ma si possono ammirare anche i disegni, quindi si può capire in che modo è evoluta si svolgeva il lavoro di Canaletto, dal disegno poi al trasferimento sulla tela, al colore. E si possono osservare anche i particolari non solo delle architetture, si possono, per chi conosce Venezia, anche individuare quelli che si chiamano i capricci, cioè le invenzioni architettoniche che venivano fatte da Canaletto sulla tela per ottenere un equilibrio compositivo piacevole, sì, di interesse. Sì, sì, sì. Si possono anche osservare i particolari, le figure umane che vengono tratteggiate in maniera molto rapida e soprattutto vengono diciamo così punteggiate da lampi di colore, e poi i cani, che sono un elemento ricorrente delle tele di Canaletto. Evidentemente era un appassionato. Ogni cane, per quanto sia tratteggiato in maniera molto rapida, ha una sua personalità, quindi è curioso osservare poi i dettagli di queste opere, che sono riprese con tecnologie sofisticate, HD e 4K, e quindi si può entrare nel dettaglio. Non solo, oltre ai disegni e alle tele di Canaletto ci sono tele dei contemporanei, quindi si può vedere la differenza tra il vedutismo di Canaletto e altri soggetti ritratti da Piazzetta, Sebastiano Ricci, Marco Ricci, che erano gli artisti veneziani di quel tempo. Sì, sì. Senti, io sono abituato alle riproduzioni, spesso anche digitali, ma quali erano le dimensioni dei quadri? Beh, piuttosto grandi, ecco, nel senso che in alcuni casi si raggiungeva anche il metro, diciamo, in alcuni casi erano un po' più piccole, ma ci sono dei quadri di vedute del bacino San Marco molto importanti, ecco, sì, di una grande dimensione. Senti, per saperne di più ci lasci tutti i riferimenti internet della vostra pagina e anche di Nexo Digital? Sì, certamente, su nexodigital.it e su arte.it potete trovare tutti gli approfondimenti necessari per conoscere non solo i dettagli di questo film, che è davvero fatto in una maniera molto britannica, quindi molto scientifico e con una curatela davvero speciale. E poi potete conoscere su arte.it anche i dettagli della vita di Canova, le sue opere, dove si trovano oggi e quant'altro. Benissimo. Eleonora, un abbraccio, a risentirci presto. A presto, grazie Federico, buona giornata. Anche a te, ciao. Eleonora Zamparutti di arte.it sul documentario Canaletto a Venezia di David Bickerstaff, in uscita in sala per 3 giorni dal 27 novembre. Eccoci in collegamento telefonico con Giulio San Giorgio per parlare con lui di un progetto. Intanto Giulio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao e un saluto ai radioascoltatori, piacere. Allora, tu, per quanto riguarda Film TV, per parlare di un progetto che mi incuriosiva, perché leggo qui Film TV Lab, luogo di incontro e laboratorio culturale cinematografico a Milano. Allora, Giulio, ce ne parli un po'? Sì, volentieri. Film TV è una rivista, appunto, che ha 25 anni, è una rivista storica per quanto riguarda la critica, l'approfondimento e la divulgazione del cinema, e da quando sono direttore abbiamo pensato di espandere la tipologia della rivista, che ho cercato di dare, insomma, la direzione editoriale, che ho cercato di dare alla rivista come luogo di incontro e di scontro tra pareri opposti, e tra anche critici, giornalisti di formazione differente, in un piccolo luogo, una saletta da 30 posti che sta proprio di fianco alla redazione, dove facciamo incontrare registi, critici e soprattutto il pubblico, in maniera tale che ci possa essere un confronto. Quindi ci sono diverse proiezioni, stiamo facendo una lunga cavalcata nel cinema italiano invisibile contemporaneo, ma facciamo anche delle retrospettive, ad esempio una retrospettiva su un meraviglioso comico francese scomparso l'anno scorso che si chiama Pierre Tex, e andiamo a scovare anche delle chicche della storia del cinema. E legato a questo ci sono anche un programma molto fitto di corsi e di masterclass di vario genere. Si passa dal corso in documentario alla masterclass di regia, all'approfondimento sulla musica contemporanea. Insomma, ci sono tantissimi momenti di approfondimento per chi vuole a disposizione, insomma. Senti, rispetto agli spazi? Allora, la redazione, lo spazio è uno spazio di 30 posti, come dicevo, sì. Ed è vicinissimo alla stazione centrale di Milano, ed è anche per questo che, insomma, abbiamo cercato in maniera molto precisa e sicura il posto, perché volevamo che fosse un posto accessibile anche che fosse non lontano dal centro di Milano, sì, che fosse accessibile, sì, al maggior numero di persone, perché sono veramente 10 minuti a piedi della stazione centrale, in mezzo a un crocevia di tram e di metropolitane. Senti, avete già stilato un calendario per le varie attività e iniziative? Sì, c'è un sito che si chiama fintvlab.it, dove si possono trovare appunto tutto il calendario dei corsi che vengono comunicati bimestralmente, quindi ogni due mesi, e lo stesso vale per le proiezioni. Ad esempio questa settimana concludiamo venerdì con una piccola chicca invisibile del cinema italiano, un film del 1996 di un professore dell'Accademia di Brera di Milano, che ha girato in maniera totalmente autoprodotta un bizzarro noir molto nouvelle vague. La prossima settimana avremo martedì, ad esempio, la proiezione di Buone Notizie, che è un film di Elio Petri, l'ultimo film di Elio Petri, un film molto divertente, grottesco, ma anche molto terminale, acido, disincantato. Mercoledì avremo I figli della notte di Andrea De Sica, che interverrà via Skype per introdurci al film e poi discuterne dopo, che è un piccolo strano noir italiano contemporaneo che parte come un college movie e poi diventa una sorta di versione nostrana di Shining. E poi giovedì, ad esempio, avremo una presentazione di un libro che si intitola Sul cinema e altre imperfezioni, di un critico molto importante per quanto riguarda la critica degli anni 90, è venuto a mancare nel 2006, si chiama Ezio Alberione, che è stato direttore responsabile di una delle riviste più importanti della critica di quegli anni, che era Duel e poi Duellanti, con Gianni Canova. Sì. A questo punto ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, sono molto semplici. Il sito è fintvlab.it, mentre per ogni informazione è info@fintvlab.it. E allora un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci per le prossime novità. Credo, e a prestissimo, grazie mille. Ciao Giulio, ciao. Ciao. Giulio San Giorgio sul progetto FintvLab, luogo di incontro e laboratorio culturale cinematografico a Milano. Giacomo Manzoli, coautore del libro Il cinema di Stato, finanziamento pubblico ed economia simbolica nel cinema italiano contemporaneo. Giacomo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, grazie, ciao. Beh, un titolo che mi incuriosiva molto, sono argomenti che del resto trattiamo spesso con i nostri ospiti, soprattutto registi. Giacomo, allora, ci parli un po' di questo progetto, come è nato e come lo avete sviluppato? Sì, il progetto è nato da una riflessione che avevamo già da tempo iniziato con alcuni colleghi di varie sedi universitarie. Io insegno a Bologna, ci sono colleghi della Sapienza a Roma, dell'Università di Milano, dell'Università della Svizzera Italiana, da dove viene Marco Cucco, che è il co-curatore di questo libro, che riguardava appunto una riflessione che riguardava il cinema italiano contemporaneo, in particolare dall'approvazione della legge Urbani, cioè la precedente legge sul cinema, perché recentemente ne è stata approvata un'altra che sta aspettando ancora gli ultimi decreti attuativi, cioè dal 2004 ad oggi, che cosa era successo nel cinema italiano, luci e ombre, diciamo così, e quindi abbiamo provato a capire quale fosse il meccanismo produttivo fondamentale, e abbiamo scoperto, un po' lo sapevamo, un po' abbiamo scoperto anche una serie di cose che non c'erano così chiare, che di fatto in Italia il principale produttore cinematografico è di gran lunga lo Stato. Da questo il nostro titolo, appunto, sul cinema di Stato, che sintetizza un po' quasi tutto il cinema italiano di oggi. Sì, sì, sì. E il ruolo della televisione in tutto questo? Il ruolo della televisione è molto importante, anche qui, sia in positivo sia in negativo, perché spesso e volentieri il finanziamento pubblico vero e proprio, che è quello che nasce dal ministero, no? Il famoso ex articolo 28, che poi è diventato finanziamento diretto da parte del MIBACT, nasce da un primo passaggio, che è quello attraverso la RAI, che è vero che è un soggetto autonomo, ma è la televisione di Stato, quindi aggiunge un ulteriore canale di finanziamento statale. La RAI produce moltissimi film, anche perché è nelle sue quote, diciamo così, per legge deve produrre film, deve investire nel cinema, come del resto anche le televisioni private. Il problema della RAI è che appunto produce, ma non crede veramente nella maggior parte dei prodotti che produce, per cui li manda in onda, perché li deve mandare in onda per legge, ma li manda in onda alle 2 di notte, negli interstizi, diciamo così, della programmazione dei suoi canali periferici. Molto difficilmente programma in prima serata, cioè si confronta effettivamente con il pubblico rispetto ai prodotti che lei stessa ha prodotto investendo direttamente nel cinema, e questo, insomma, si può capire bene che è un problema, perché manca un criterio di oggettivazione, che è la risposta del pubblico. Sì, sì, sì. Giacomo, ecco, soprattutto per chi ci ascolta, cerchiamo di dire in maniera un po' più semplice come funziona il meccanismo di finanziamento dall'inizio all'opera finita. Sì, è un meccanismo che era nato con delle buone intenzioni, credo, e anche con un progetto di legge molto sensato. Poi purtroppo, come spesso capita, queste buone intenzioni si sono perse un po' per strada, per cui solitamente funziona così, cioè posto quello che abbiamo premesso, ovvero che in Italia esistono due tipi di film, quelli che sono finanziati solo con capitali privati e sono una netta minoranza, e la stragrande maggioranza dei film godono di un finanziamento pubblico. Sì. Il problema qual è? Che questo finanziamento pubblico ha moltiplicato i suoi canali e ha reso il cinema una speculazione interessante. Cosa voglio dire? Voi voleste produrre un film, potreste andare in prima battuta alla RAI, da cui ottenete un finanziamento o comunque una partnership. Sì. Dopodiché andate al ministero, da cui potete ottenere un altro finanziamento, quindi andate alle film commission regionali, magari negoziando, dicendo ambienterò un certo numero di scene in Piemonte, in Trentino Alto Adige, in Emilia Romagna, e ottenete un ulteriore finanziamento. Infine potete accedere al finanziamento indiretto, cioè il credito d'imposta. Trovate una grande azienda, solitamente una banca o comunque un grande marchio, che deve dei soldi allo Stato attraverso il fisco, cosa che è normale, e può investire una parte di questi finanziamenti nella realizzazione del film. li investe direttamente, ma sono soldi comunque dello Stato, perché altrimenti li dovrebbe versare la fiscalità generale. Quindi abbiamo già quattro diversi canali di finanziamento. Che cosa è successo negli ultimi anni? Lo vediamo dalle cifre, dai resoconti che lo stesso Ministero fornisce, cioè sì, è aumentato esponenzialmente il numero dei film prodotti, diminuendo di pari passo il numero dei biglietti venduti per il cinema italiano. Cioè è diventato, dicevo prima, una speculazione, cioè molti fanno un film sapendo già che il film non avrà una vera distribuzione, non troverà un pubblico, ma sono film fatti per riuscire ad accumulare questi finanziamenti pubblici, sapendo che poi non ci sarà uno spettatore realmente interessato a vedere quei film. Basta vedere il numero dei film prodotti in Italia, come è cresciuto anche solo negli ultimi due anni. Nel 2015 in Italia erano stati prodotti 185 film, nel 2016 sono stati 223. Sì, cioè sì, un numero altissimo per un mercato come quello italiano. La conseguenza, quest'anno in particolare 2017, la percentuale dei biglietti venduti per il cinema italiano è intorno al 16-18%, cioè bassissima. L'anno scorso era andato un po' meglio, ma solo grazie al film di Checco Zalone, che da solo aveva fatto il 35% degli incassi del cinema italiano. Quindi ed è naturale che sia così, perché appunto si fanno sempre più film che si fanno concorrenza fra di loro, ci sono molti prodotti che sono realizzati in economia e naturalmente il pubblico ne risente, perché quando uno va a vedere un film che non gli piace, che gli sembra non all'altezza di un prodotto cinematografico di buon livello, chiaramente ci penserà tre volte, con tutte le cose che potrebbe fare nel suo tempo libero, con i nuovi media, con le serie TV, con tutta l'enorme offerta appunto di impiego del tempo libero che c'è oggi, ci penserà due volte ad andare al cinema, pagando anche un biglietto che non è per niente economico, per andare a vedere qualcosa che non lo soddisfa. La crescita sulla scena della quantità e della qualità dell'opera documentaria ha cambiato qualcosa? Purtroppo no, nel senso che appunto in questo sovraffollamento, diciamo così, di film si sono chiusi tutta una serie di spazi, e in particolare quelli relativi al documentario, che di fatto non ha quasi più accesso alle sale cinematografiche. Sì. Ed è veramente un peccato, perché invece lo abbiamo visto, insomma, i riscontri per esempio di Gianfranco Rosi ai festival internazionali, ma al di là di quello c'è una scena documentaristica e un fermento creativo veramente molto molto interessante, e varrebbe la pena sostenerlo, non necessariamente solo in sala. Qui di nuovo sarebbe fondamentale il sostegno e il supporto delle televisioni, a cominciare dalla RAI, che naturalmente è il soggetto più esposto, ma anche degli altri network televisivi. Sì, sì, sì. Ripensavo al nuovo appuntamento di presentazione del libro che ci sarà qui a Roma, ed è anche il motivo per cui oggi ci sentiamo. Intanto diamo questa indicazione a chi ci ascolta. Sì, il 29 di novembre, nel pomeriggio alle ore 16, ci sarà una tavola rotonda di presentazione del libro, appunto all'Università Roma 3, al Via Ostiense, in cui rifletteremo. Ci sarò io, ci sarà Marco Cucco, ci saranno alcuni degli altri autori del libro, Massimo Scaglioni, Luca Barra, Andrea Minuz, assieme ad alcuni operatori del settore e soprattutto ad alcuni soggetti istituzionali, in particolare il direttore della Direzione Generale per il Cinema del Ministero, il dottor Borrelli, e rifletteremo anche sulla sull'indirizzo che ha preso la nuova legge in base ai decreti attuativi, perché insomma il nostro non è un libro, come dire, contro il finanziamento pubblico, non è assolutamente questo. Personalmente, ma anche gli altri colleghi, siamo assolutamente convinti della necessità di un finanziamento pubblico, di un sostegno pubblico al cinema come a tutti gli altri settori culturali. Il problema è come, cioè dove si investono queste risorse, come, con quali meccanismi. Ne ha preso atto lo stesso ministro, perché ha fatto una riforma di tutto il sistema audiovisivo. Ci sono ormai in chiusura anche gli ultimi decreti attuativi, e quindi il 29, lo ripeto, alle ore 16 lì all'Università Roma 3 faremo questa tavola rotonda di presentazione e di discussione. Credo che al di là del libro sarà interessante capire come si sta riflettendo a un rinnovamento e a un cambiamento del meccanismo di finanziamento. Sì. Ecco, della nuova legge abbiamo avuto in più occasioni modo di parlarne anche dal punto di vista dei diretti interessati, vari soggetti. Giacomo, come ti dicevo prima, in sintesi, quali sono a tuo modo di vedere gli elementi forti portanti di questa legge e quali le criticità mosse dai vari soggetti coinvolti? Ma dunque, diciamo, il principale elemento di forza è che finalmente la legge cerca di considerare tutto il settore audiovisivo nel suo insieme, per cui di ragionare su finanziamenti che non riguardino ciascun ambito come una sorta di feudo o di enclave. Quindi il cinema, il documentario, il sostegno alle sale, il sostegno alle cineteche. Un'innovazione molto importante è quella relativa alla formazione. Per la prima volta si prevede una percentuale di investimento anche sul cinema a scuola, perché ci si lamenta spesso della difficoltà di trovare spettatori, pubblico sensibile a un certo tipo di offerta cinematografica, ma se la formazione non comincia a scuola poi diventa veramente difficile recuperare quegli spettatori lì. Quindi questi sono elementi molto positivi. C'è un nodo molto controverso, che è quello dell'aumento delle quote televisive. Questo, insomma, gli operatori naturalmente hanno il loro punto di vista, si sono sentiti un po' invasi. Io su questo non ho un'opinione definita, sì. Però trovo positivo che ad esempio la RAI, come dicevamo, il soggetto, la televisione di Stato, sia chiamata a una programmazione in prima serata, almeno in seconda serata, diciamo così, di un numero consistente dei film che lei stessa produce. Questo mi sembra molto razionale. La principale criticità dal mio punto di vista rimane la persistenza del cosiddetto reference system, cioè il meccanismo di attribuzione automatica di punteggi nel finanziamento dei film, che crea un po' l'effetto pioggia sul bagnato. Cioè, se nel progetto di un film io, produttore, chiamo un direttore della fotografia, un regista, un attore che ha già ottenuto riconoscimenti in festival e in altre manifestazioni, ho un punteggio più alto. Certo, questo fa sì, certo, che in Italia lavorino un po' sempre gli stessi, e non fa molto bene al cinema italiano, non aiuta l'emergere di nuovi talenti e di nuove figure, soprattutto non tanto fra i registi quanto fra gli attori, fra i direttori di fotografia, le maestranze, gli sceneggiatori, eccetera, cosa di cui invece abbiamo bisogno, anche perché di giovani molto bravi ce ne sono. Certo. Giacomo, in chiusura ci lasci dei riferimenti internet per saperne di più sul libro? Ma riferimenti internet, direi senz'altro il sito dell'editore, su cui si possono trovare le informazioni relative al libro, che è molto semplice, perché è www.ilmulino.it, e il titolo del libro è Il cinema di Stato, e lì si trovano tutte le informazioni, insomma, relative a questo testo. Benissimo, allora un ringraziamento, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie a voi e a presto, arrivederci. Giacomo Manzoli, coautore del libro Il cinema di Stato, finanziamento pubblico ed economia simbolica nel cinema italiano contemporaneo. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 in modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info. sull'home page trovate Ascolta la diretta. Sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni Visionari, trovate la scaletta di quest'oggi e le informazioni sulla trasmissione, come anche sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione, per parlare con lei del film La mano invisibile, in uscita in sala oggi giovedì 23 novembre. Iris, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, un film, come ti dicevo, molto interessante, che andrebbe fortissimo anche a teatro. Allora, raccontiamolo a chi ci ascolta. E allora, il film di David Mazzani intanto è una opera prima realizzata appunto da David Mazzani, il regista, ma è lavorata in modo cooperativistico. Cosa vuol dire? Che è un film dove tutta la squadra dei lavoratori sul set hanno, diciamo, decisioni collettivamente su tutti i dipartimenti che riguardavano il film, no? Quindi sì, condividendo tra tutti le diverse scelte, diciamo, artistiche e produttive. È un film che mette sul fuoco la denuncia di un tema che ci riguarda sicuramente a tutti molto, che è il precariato e il mondo del lavoro, no? Sì. E a differenza magari di altri film che hanno trattato questo tema, noi abbiamo visto in questa opera prima che è abbastanza invisibilizzata, purtroppo, e questa è la nostra, diciamo, missione di dar visibilità a questo tipo di opere. Abbiamo visto appunto che qua il mondo del lavoro viene invece raccontato non come esterno, ma dai propri protagonisti, come se fosse un tema che riguarda anche loro, giustamente, no? Cioè, non c'è uno sguardo esterno in questo film. Sì. Senti, come lo avete incontrato questo lavoro? Allora, noi, forse anche alcuni dei vostri ascoltatori, colleghi, addetti al lavoro, eccetera, ci conoscono a noi Exit Media perché organizziamo il Festival del Cinema Spagnolo. Sì, certo. Quindi da lì abbiamo sicuramente uno scouting, un lavoro che facciamo giorno dopo giorno con il cinema spagnolo e latinoamericano, dove sicuramente andiamo a incontrare, a trovare dei film che sfuggono a altri colleghi distributori che magari su questo, diciamo, fetta di riferimento del pianeta, cioè, vanno ai grandi mercati. Noi in questo caso, nel caso nostro, lavoriamo proprio specificamente su questo film, quindi abbiamo, diciamo, un lavoro, un vissuto di un collegamento con la Spagna e l'America Latina sicuramente più approfondito. Quindi sono film sicuramente anche che su cui noi decidiamo di scommettere, perché sono film importanti e sono film che sicuramente anche a certi esercenti, a certi distributori, causerebbero un po' di paura, no? Però vabbè, non rischia, no? Si dice in italiano. Sì. Senti, Iris, l'opera di questo esordiente, ecco, che tu sappia, come è nata, come è venuta fuori? Allora, questo è l'invento di una opera, un saggio in realtà, sì, di Isaac Rosa, che è un autore appunto che lavora sull'economia, sul lavoro in un modo abbastanza divulgativo, e chiaramente il titolo del film fa riferimento, La mano invisibile, a Adam Smith e a questa teoria dove il mercato, no, teoricamente tutti quelli che lavoriamo ci sono le leggi invisibili per cui si regolano da sole, no? Un po', sicuramente lì, insomma, un economista la spiegherebbe meglio di me cosa significa la mano invisibile. Nel film questa, diciamo, metafora viene applicata in modo che questi personaggi, no, che fanno lavori diversi, c'è un sarto, c'è un muratore, vengono chiamati per svolgere questi lavori che fanno quotidianamente di fronte a un pubblico. Sì. Che è un pubblico ed è anche, che non vediamo mai nel film, non vediamo mai attua a parte alcune circostanze, e soprattutto quando irrompe sulla scena, ed è un lavoro soprattutto inutile, perché fanno delle cose che la sera stessa vengono smontate o buttate, quindi questo rende ancora più drammatico il senso di inutilità che vivono i protagonisti. Esatto, lì un po' la dinamica del film, che è quello che, correggimi se non sei d'accordo, interessante, sì, è il fatto che la dinamica che si crea tra i lavoratori, no? La dinamica che si va creando progressivamente tra di loro, con dove ognuno chiaramente poi dopo appunto svolge il lavoro un giorno, poi un altro giorno, si chiede ad un punto che cosa sta facendo, no? Perché lo sta facendo. È lì che interviene anche questo elemento del pubblico che appare nel film, che gioca anche insomma un ruolo importante, come ben dicevi. E poi si creano anche dei conflitti tra i lavoratori stessi, perché se uno viene messo da parte, un altro viene chiamato a svolgere un lavoro di cui magari non sa nulla, ma prende il posto dell'altra persona. Infatti, per esempio, lì, che è un film che abbiamo presentato a parte in alcune puntate del festival di quest'anno, anche alle giornate della FICE, e abbiamo avuto il piacere di avere dei dirigenti dei diversi sindacati italiani, che hanno fatto una lettura sicuramente molto molto interessante, dove chiaramente si ponevano, il film mette anche questa domanda, no? L'organizzazione tra lavoratori per difendere i nostri diritti, dove la andiamo a cercare, no? Dove è rimasta, no? Cosa sì, sì, succede dietro le quinte, per cui siamo ogni volta più individualisti, quindi pensiamo che è proprio importante, perché mette domande, prova anche di dare alcune risposte e prova di metterci di fronte, di riflettere su qualcosa che per noi sicuramente è quotidiana e rutinaria. Poche volte ci mettiamo a pensare, no? A dire, beh, è il mio lavoro tutti i giorni, no? Perché lo svolgo? Che implica verso di me, verso gli altri? Quindi è un, insomma, già sin da quello che raccontava all'inizio di come è stato fatto il film, dà un elemento di denuncia importante, no? Che sì, dice, vabbè, sì, dopo queste domande di cosa sto facendo, chi sono come individuo lavoratore, e la domanda successiva è come faccio a cambiare le cose, no? Sì, sì. Senti Iris, da oggi nelle sale, in quante sale sarà? Guarda, siamo riusciti, perché quasi che lo devo dire, è stato un lavoro abbastanza difficile, perché questi film diciamo considerati dal mercato standard tradizionale difficili, trovano anche a volte le difficoltà di essere piazzati. Siamo riusciti a trovare la complicità di 10 esercenti che hanno creduto nel film, e che insomma da oggi hanno anche creduto in che questo messaggio alla fine è importante, no? Basta già di certi tipi di film, no? E quindi per quello che riguarda Roma è al Cinema dei Piccoli, sabato verrà il regista all'Apollo 11, ci sono i colleghi del Cinema Beltrade, ci sono i colleghi del Postmodernissimo a Perugia, c'è Cagliari, l'Odissea, c'è Reggio Calabria anche, e Bari, quindi insomma alla fine credo che anche un po' la nostra missione qua, sì, chiedendoci noi come distributori cosa vogliamo fare, credo che sono film che meritano veramente il lavoro e lo sforzo di portarli in giro fino a che insomma si esauriscono, perché sono film che sicuramente partono e viaggiano, ecco. Bene, allora ci lasci tutte le indicazioni su internet per saperne di più rispetto al film, rispetto anche alle sale? Sì, sul sito di www.exitmedia.org, lì c'è già un box dedicato al film dove ci sono scritte insomma tutte le informazioni e dove si possono trovare tutti i riferimenti appunto per poi siamo molto contenti, devo dirlo, che è un film che pur appunto lavorato abbiamo avuto anche una grande accoglienza della stampa, dove la critica ci sta insomma dando grandi soddisfazioni, aprendo il giornale vedendo che è un film che dove si parla, si ha creato insomma un po' di di curiosità, quindi in questo senso anche i colleghi critici giornalisti insomma hanno visto qualcosa di interessante anche in quel film, quindi speriamo che anche il pubblico, anche tutti voi gli ascoltatori insomma potete godervi il film e insomma riflettere su questa problematica. Bene, Iris, un abbraccio, a risentirci presto. Grazie, grazie a tutti. Ciao, ciao, ciao. Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione sul film La mano invisibile di David Masian, in uscita in sala oggi giovedì 23 novembre. Giovanna Tanzarella di 12 Entertainment sulla distribuzione del film Egon Schiele di Dieter Berner, in uscita in sala il prossimo 27 novembre. Giovanna, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico e grazie dello spazio ovviamente. Posso farti però immediatamente una precisazione, certo. Qui non è soltanto una distribuzione 12 Entertainment, certo. In realtà è una co-distribuzione tra Draca Distribution e 12 Entertainment, quindi insomma ci tengo a precisare che, certo, è un lavoro fatto da entrambe le realtà, insomma. Allora, per chi ci ascolta, Egon Schiele, il personaggio come è raccontato? È raccontato nella sua breve vita, in realtà, perché è la storia di questo artista viennese morto a soli 28 anni di febbre spagnola, un artista che nonostante abbia vissuto così poco ha lasciato una produzione artistica veramente enorme, perché se pensi che ha lasciato circa 3.000 opere tra dipinti a olio, disegni, acquerelli, quindi un artista prolifico al massimo, che ha subito nella sua arte sia l'influenza della sua vita, insomma dei rapporti familiari molto difficili, che dall'attualità che ha vissuto. È morto nel 1918, insomma nel 2018 ricorre il centenario dalla morte, quindi ha vissuto il pieno scoppio della Prima Guerra Mondiale. Sì. E che si è tutto visto in tutte le sue opere. Sì, è un, sì, personaggio, un artista anticonvenzionale, dissacratorio, controverso, affascinante, tormentato. Si possono usare mille aggettivi veramente per identificarlo. È un artista che, come ti dicevo, ha subito in realtà insomma la sua adolescenza con un padre malato mentalmente, che l'ha lasciato a solo 15 anni, è morto quando aveva solo 15 anni, un rapporto conflittuale con la madre, un rapporto quasi al limite dell'incestuoso con sua sorella Getty, che è stata la sua prima musa peraltro. E quando finalmente a 17 anni viene iscritto all'Accademia delle Belle Arti viennese dallo zio, che diventa il suo tutore legale. Lo zio riconosce la sua arte, lo iscrive a questa accademia e da lì la produzione di Schiele, diciamo, ha il suo via. Però Egon è particolarmente tormentato e anche l'accademia gli sta stretta, certo, quindi abbandona la stessa e diventa un autodidatta. Sì. Poi l'incontro che dà la svolta a tutto è quello con Klimt, che diventa il suo primo mecenate, gli fa conoscere i collezionisti viennesi, incomincia a circolare la sua opera e la sua prima mostra a soli 18 anni. Sì, sì. Quindi qualcosa che lo rende unico in questo senso. Rimane uno dei più brillanti disegnatori di tutti i tempi. Sì. Assolutamente il disegno è la sua maggiore espressione. Una grande passione poi per la bellezza femminile e un successo già riconosciuto all'epoca, perché insomma già era apprezzato ai suoi tempi. Hai ragione, era apprezzato, ma in realtà ha vissuto di miseria quasi sempre. Sì. Beh, che questo succede spesso. Esatto, in realtà se pensi che ora, a 100 anni di distanza, un suo quadro può essere battuto oltre i 20 milioni di sterline. Nel 2010 Sotheby's ha battuto un olio 100% 20 per 22 milioni di sterline, 25 milioni di lire. Quindi ora ha una valutazione altissima, e anche se non tutti conoscono la sua produzione, è chiaro che nel mondo degli appassionati, di chi si avvicina all'arte con facilità, ovviamente è riconosciuto, però la sfida di portare questo film al cinema di Bracket Weld è proprio questo, far conoscere questo artista sul grande schermo, no? Ecco, proprio in questo senso volevo chiederti la scelta distributiva e come funzionerà, quante sale saranno coinvolte. Allora, noi siamo tuttora con un'anteprima per tutta la settimana, ma in realtà fino al 30 alla Cineteca di Milano nello spazio Oberdan, dove il film è in lingua originale sottotitolato. Sì. Poi dal 27, 28 e 29 novembre abbiamo la programmazione evento al cinema, ma un'ulteriore programmazione a partire dal 30 di novembre. Quindi stiamo cercando di arrivare un po' dappertutto e in tempi ahimè non sempre sono gli stessi, però ci stiamo provando, stiamo cercando di trovare il maggior numero di cinema che credano in questo film, ed è così. Per ora abbiamo una risposta veramente importante alla nostra proposta del film. Ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Certo, assolutamente sì, potete trovare tutto nella pagina Facebook Egon Schiele il film, lì ci saranno sia le sale che ci programmano con le date, gli orari, insomma tutto quello che volete sapere sul film. Giovanna, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie Crepi, ciao Federico, grazie. Ciao. Giovanna Tanzarella di 12 Entertainment sulla distribuzione del film Egon Schiele, Death and the Maiden di Dieter Berner, in uscita in sala il prossimo 27 novembre. Giulio Squillacciotti, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao Federico, ciao a tutti. Ciao. Allora, sei a Torino perché sei in veste di coregista di un documentario per questa 35esima edizione del Torino Film Festival. Ce ne parli un po', ci racconti di cosa si tratta? Sì, guarda, siamo in concorso nella sezione documentari italiani con un film che ho girato insieme a Camilla Inson, che è un'antropologa, nel 2015, che abbiamo montato nell'arco di 2 anni, che si chiama Arcipelago in italiano, girato nel Golfo Persico su delle isole iraniane, che però sono a metà tra la penisola arabica e la Persia, e quindi che hanno subito l'influsso delle tradizioni e culture che si sono spostate dall'Africa, passando per il mondo arabo fino alla Persia, di questioni religiose, musicali e quant'altro. Noi abbiamo girato questo documentario che racconta, attraverso la voce degli isolani, degli abitanti delle isole, la loro convivenza con delle entità soprannaturali, degli spiriti, demoni, che da secoli, quindi dai tempi della tratta degli schiavi dell'Africa, sono arrivati su queste isole, gli spiriti, e convivono con gli uomini e vengono addomesticati dagli uomini attraverso delle pratiche rituali di esorcismo legate alla musica. Quindi noi siamo stati un mese passa lì su queste isole, facendo avanti e indietro tra le varie isole e le varie comunità, assistendo a questi riti e a queste danze, appunto, che si muovono al ritmo di musica delle persone che prestano il loro corpo a degli spiriti che si esprimono in questi riti, che si chiamano i riti dello Zar. Siete stati anche i primi, se non sbaglio, a poter filmare. Sì, beh, venendo da questa parte di mondo, sì, nel senso che ci sono degli studi, ovviamente più di carattere alcuni musicologici fatti dall'Iran, altri di carattere religioso in altre aree ascrivibili a questo rito, come il Corno d'Africa, che è quello, insomma, l'area di provenienza di questo rito. Però sì, diciamo che da italiani, da questa parte di mondo, siamo stati i primi a mettere insieme una storia, peraltro raccontata solo dalle loro voci, quindi è una storia da cui noi scompariamo. Senti, il progetto documentario come nasce? Nasce perché la mia collega antropologa Camilla Inson, che fa ricerca da anni nel Kurdistan iracheno sulle confraternite sufi, quindi su alcune pratiche dell'Islam, ha avuto questo hint di andare lì in Iran, e da sempre noi volevamo fare un film insieme che riguardasse questo, che parlasse di questi mondi, e si è prestata l'occasione, in questo caso qui, che era una un frangente, un tema che era anche a lei poco conosciuto, abbiamo deciso di mettere insieme le due discipline, quindi quella cinematografica e quella l'antropologia, per farne poi alla fine un film. Quindi non è una ricerca etnografica, perché non diamo dati, è proprio una questione molto poetica e di immagini di vita quotidiana su delle isole e di come queste isole siano popolate da uomini e da spiriti. Sì. In realtà noi, pur avendo due discipline diverse, siamo entrambi molto interessati dal mutamento delle tradizioni, come io feci con l'Arcor dall'America, che una volta arrivato in Italia, anzi a Roma, cambia da dei caratteri originari, muta sulla base delle esperienze locali, allo stesso modo dei riti, delle pratiche, delle musiche, avendo delle origini, delle matrici date, una volta che si spostano per delle cause, come gli schiavi o qualsiasi altra, le migrazioni assumono nuovi caratteri. Sì, sì. Senti, com'è il rapporto tra le persone e gli spiriti? Guarda, è un rapporto, quando noi diciamo per esempio esorcismo, almeno io ti dico l'idea che mi sono fatto io, pensiamo sempre a un essere estraneo che si impossessi di noi e che va scacciato, no? Invece in quel caso per loro è una convivenza, c'è un primo momento in cui questa entità prende possesso del corpo, comunque entra, che può essere apparentemente nocivo, in realtà questi spiriti vengono passati anche per bene, per proteggere, quindi non solo per attaccare, non sono necessariamente dei demoni. E quindi in realtà è un rapporto quotidiano che può essere insomma strano all'inizio perché provoca dei fastidi, ma in realtà questi riti vengono proprio pensati sia per curare ma anche per far passare una serata comunitaria dalle persone umane e gli spiriti, quindi in realtà fanno delle feste in cui invitano una persona solo perché ha uno spirito, non per la persona in sé. Ok. Senti, dopo Torino, che ipotesi distributive? Guarda, speriamo, noi il film l'abbiamo completamente autoprodotto, nel senso che abbiamo avuto un aiuto dal Keshem Friaria, che è il porto franco lì di questa zona dove siamo stati, per pagare i viaggi. In realtà poi il film, produzione e post-produzione, ce lo siamo completamente autoprodotti. Speriamo che con questa finestra di Torino, e noi li ringrazieremo, non potremo mai ringraziare infinitamente perché ovviamente ci danno una chance di visibilità enorme, speriamo che qualcosa si apra. Ora, le cose indipendenti si possono sempre fare, noi speriamo, per esempio io vivo a Milano, a Beltrade, speriamo di riuscire a portarlo, sarebbe insomma figo farlo pure a Roma, insomma cercare dei circuiti, e speriamo in una distribuzione almeno in qualche sala, insomma. Ci lasci riferimenti web? Guarda, web vi consiglierei di, noi non abbiamo un sito del film, vi consiglierei di seguire il sito del festival, cioè la prima proiezione sarà questo sabato a mezzogiorno al Cinema Massimo a Torino, poi la prima ufficiale sarà venerdì 1 dicembre alle 20, sempre al Cinema Massimo, e l'ultima il giorno di chiusura del festival, che è il 2 dicembre alle 4 di pomeriggio al Cinema Reposi. Quindi se cercherete poi magari i nostri nomi, qualcosa uscirà fuori dopo per il futuro, per eventuali altre proiezioni. Giulio, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a presto. Grazie mille. Ciao. Giulio Squillacciotti, co-regista del documentario Archipelago, alla 35esima edizione del Torino Film Festival, con tre proiezioni: 25 novembre, 1 e 2 dicembre. Roberto Proia di Eagle Pictures sulla distribuzione del film Detroit di Catherine Bigelow, in uscita in sala oggi giovedì 23 novembre, film al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana con una foto di scena. E devo dire, Roberto, che film! Ciao e ben ritrovato. Ciao ragazzi, ben trovati. Sì, se non il capolavoro di Catherine Bigelow, uno dei suoi migliori. Beh, sicuramente non è un film che lascia indifferenti, perché il tema non lascia indifferenti, come avrete sicuramente spiegato, è la storia delle sommosse che ci furono nel 67 a seguito di un banale incidente, ma che come al solito è un detonatore di qualcosa di più grande, che provocò poi la morte di 43 persone, migliaia di feriti, 7.800 arresti, insomma fu un delirio, ed è praticamente anche la storia di un sopruso, della giustificazione di un sopruso da parte della polizia bianca verso la popolazione di colore, che, se ci pensate, che è avvenuto soltanto poco più di 40 anni fa, insomma fa venire un po' i brividi. Sì. Senti, che tu sappia, come nasce questo progetto e questa realizzazione della Bigelow? Ma questo è un progetto che Catherine Bigelow coltiva da parecchio tempo. È stata, come dire, rimbalzata da qualche studio, finché non ha trovato nella sua produttrice storica Megan Ellison, la stessa di The Hurt Locker, la stessa di Zero Dark Thirty, i fondi per poi realizzarlo, perché comunque è un film molto costoso. Ci sono enormi scene di massa, tantissime, anche se non c'è un cast altisonante, è solo che il numero delle persone coinvolte in questa lavorazione è stato enorme. Non sono stati usati effetti speciali, non è stato usato CGI per replicare le persone, sono persone vere. Insomma, è stata una cosa abbastanza complessa, senza contare che, insomma, io credo che la direzione che sta prendendo l'America in questo momento, o insomma negli ultimi due anni, ha aiutato, diciamo, chi non la pensa così a finanziare questo film così importante. Sì, sì, sì. Senti, tutta una notte, diciamo, in un luogo ristretto, che è quello di alcune stanze dell'ingresso di un hotel. Catherine Bigelow, in questa unità di spazio e unità di tempo, costruisce una tensione ai limiti del sostenibile. Sì, è un thriller incredibile, pur come dire, per almeno un'oretta confina, purché anche se si confina in una stanza, in due stanze, perché succede sempre qualcosa che alza l'asticella. Si comincia con uno schiaffo, si parte poi con un sopruso verbale, poi con un pugno, poi a quel punto vedi, capisci che la direzione in cui la cosa sta evolvendo può non avere fine, nel senso, come una palla di neve. Ad ogni minuto, ad ogni 10 minuti, a ogni mezz'ora che passa, la violenza e il soprusso si fa sempre più insostenibile. Quando si pensa di aver raggiunto il limite, arriva sempre qualcosa che alza ulteriormente l'asticella. La cosa drammatica è che questo film, anche se ha una sceneggiatura, in realtà è tutto quanto basato su fatti che sono veramente accaduti. Questo rende il tutto più, come dire, più necessario. Ecco, proprio a questo proposito, tu parlavi di 43 vittime di quella rivolta. In questo episodio specifico sono 3 gli afroamericani uccisi dalle forze dell'ordine per un processo che non ha poi trovato colpevoli. Esatto, perché praticamente si prende come voce narrante un poliziotto, ma di colore, che si trova interrogato, perché è l'unico che ha visto ciò che è accaduto, si trova interrogato dalla polizia, e al momento in cui lui cerca di far capire che il problema è stato il trattamento dei poliziotti nei confronti degli afroamericani, capisce che se continua a dire quella sua verità andrà nei guai anche lui. Cioè, c'è una pressione psicologica su questo ragazzo enorme, perché chiaramente loro, la polizia non vuole che esca fuori questa verità, una verità che poi è molto semplice. Giustificare un sopruso, per quanto grave, per quanto atroce, è molto facile, cioè non è complicato, ed è molto, come dire, inquietante questa cosa. C'è chi ha fatto, nelle recensioni fantastiche che sono uscite oggi sui giornali italiani, c'è chi ha fatto il paragone con ciò che è successo a Genova. Comunque, sì. Ripeto, giustificare un sopruso è terribilmente semplice. Sì, sì, sì. Senti, un altro tassello fondamentale è la scelta di un cast notevole. Sì, sono tutti attori incredibili. Addirittura c'è il cattivo di turno, è uno che fino adesso ha fatto soltanto le parti un po' da imbranato, e tira fuori una cattiveria in questo film, sì, sì, veramente inquietante. Sì. E poi, vabbè, John Boyega, che è ormai diventato famoso grazie a Guerre Stellari, che qui chiaramente fa tutt'altro ruolo del nostro eroe positivo, appunto, questo poliziotto di colore che si trova preso tra l'incudine e il martello. Sì. Senti, che distribuzione? Allora, il film doveva uscire teoricamente anche abbastanza limitato, come è uscito negli altri paesi europei, quindi sugli 80-90 copie. In realtà saranno 140 le sale che lo vogliono fare, che hanno creduto al film, che hanno chiesto di vederlo, e dopo averlo visto hanno deciso di dargli più sale. Quindi per noi chiaramente è un attestato di fiducia enorme. Secondo noi, diciamo, l'Italia è pronta per vedere una storia di questo tipo, specialmente adesso. Le reazioni a stelle e strisce nell'uscita statunitense? Le reazioni sono state molto divise, perché rendiamoci conto che in questo momento c'è un governo negli Stati Uniti che impone una certa linea di condotta su certe tematiche, e c'è una controparte che invece le controbatte. La stessa ha polarizzato molto, nel senso, tutti quanti riconoscono che la Bigelow ha questo talento incredibile, incredibile, che ricordiamo che è l'unica donna al mondo ad aver mai vinto un Oscar come miglior regia. Ha questo talento incredibile, dopodiché chiaramente fa un'accusa ideologica molto forte, quindi chi non la pensa così, come dire, la stampa più conservatrice si è chiaramente tenuta alla larga. La stampa, quella neutra, quella appunto Variety, Hollywood Reporter eccetera, invece chiaramente l'ha incensato. Sì, sì, sì. Io ti ringrazio Roberto, ricordiamolo, Detroit di Kathryn Bigelow in uscita oggi giovedì 23 novembre, a risentirci presto. Grazie ragazzi, buon lavoro, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Roberto Proia di Eagle Picture sulla distribuzione appunto di Detroit. Avremmo dovuto sentire anche Gianluca Vitiello, regista del documentario Napoli Tanners, in uscita in sala il prossimo 25 novembre, che però non è raggiungibile. A questo punto ci salutiamo, ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta, dalle 14 alle 15. Sempre sul sito, sempre sull'home page, trovate anche nella colonna centrale alla voce trasmissioni, visionari, la scaletta e le informazioni sulla trasmissione, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.